Buongiorno, è un piacere essere qui a Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti. Io oggi vorrei parlare di democrazia. La democrazia, che bella, eh? Cioè, democrazia è proprio una cosa che bella, a me piace, cioè la democrazia mi piace, mi eccita, mi esalta. La democrazia per me è un po' come una bella gnocca. Sì, è una bella gnocca, cioè è una bella donna, capito? È qualcosa di meraviglioso, qualcosa che cambia, qualcosa di indefinibile, qualcosa di strano, qualcosa a cui devi fare la corte ininterrottamente perché ti sfugge. Allora, l'altro giorno, mentre ero lì che meditavo su come si potrebbe definire, no? Su come la si potrebbe raccontare questa democrazia, beh, mi è venuto in mente che si potrebbe usare la Divina Commedia. Sì, cioè, perché la democrazia un po' assomiglia alla Divina Commedia. Se ci pensi, è vero, è fatta un po' così, cioè ci sono l'inferno, il purgatorio e il paradiso. E alla fine, insomma, è un po' colpa tua se sei all'inferno, sei in purgatorio oppure sei in paradiso. C'è qualcuno che ti ama, c'è qualcuno che ti ama, però tu hai sbagliato qualcosa e sei finito lì. Come sono fatti? Il paradiso è là in alto, è bello. E ci sono in pochi, ci sono in pochi, pochissimi, sono quelli che se lo sono meritato, se lo sono guadagnato, sono lassù, evidentemente loro hanno fatto qualcosa che se lo sono meritato e stanno bene, non so, c'è cioè quello che ti immagini in paradiso, che ne so, la cioccolata, le barche a cala di volpe, non lo so, quello che vuoi. E invece giù, nell'inferno, nell'inferno ce ne tanti, tantissimi, sono là, sono brutti, sono sporchi, sono puzzolenti, stanno che ne so, stanno in Darfur, stanno in un call center, guadagnano 300 euro al mese, sono dei mammoni schifosi, che ne so, è brutto, è brutto. E poi c'è il purgatorio. Il purgatorio è pieno di gente e si cerca di metterne sempre di più. Perché in purgatorio c'è la classe media, quelli che stanno nel mezzo. Il purgatorio è fondamentale. Perché praticamente la classe media la si potrebbe anche chiamare come il cuscinetto democraticamente rilevante. Democraticamente rilevante perché è lui che va informato, è lui che va educato, è a lui che vanno raccontate le cose per fare in modo che quelli che stanno là sopra, su nel paradiso, non incontrino mai quelli che stanno giù, là sotto, all'inferno. Allora, una volta era così, infatti era proprio così, era una bella vita. Adesso non so se vi ricordate, io vorrei cominciare, è caduto, avete visto, non c'è più Silvio Berlusconi. Cioè, una cosa, io sono rimasto impressionato, è successo adesso in novembre, ma ancora non mi riprendo. Quando è successo io ero così contento, ho detto, ah, che bello, se n'è andato finalmente, c'erano 20 anni che provavamo a mandarlo e lui rimaneva lì, se n'è andato, e ero felice. Poi è passato un po' di tempo e ho cominciato a pensare che forse non ero più così felice. Cioè, se ci pensate bene, una volta si stava meglio. Non so se vi ricordate, voi pensate all'immagine di Silvio, sorridente, come era sempre contento. Lui che andava ai consessi internazionali, cioè che si stava bene. L'Italia era un posto bellissimo, pieno di gnocca, dove si stava da Dio, era un posto proprio della Madonna. Poi ad un certo punto è arrivato Mario Monti. Mario Monti, ma l'avete visto? Mario Monti, Mario Monti è serio, è serissimo, parla in quel modo serissimo, dice delle cose serissime che sa solo lui, perché Mario Monti è preparatissimo, è cambiato tutto il contesto, adesso hai anche l'impressione che si lavori. Cioè, io all'inizio ero contento, poi adesso sono rimasto un po' meno contento, perché stanno lavorando di brutto. E visto che mi mancavano le cose di prima, ho dato un'occhiata indietro, perché così, ragazzi, non si può più lavorare. Cioè, prima c'erano personaggi come Maroni, ragazzi, ma vi ricordate la Lega? Che bello! La Lega adesso è passata all'opposizione, vi ricordate quando alzavamo tutti il dito medio, quando commentavamo le cose in questo modo? Prima c'erano personaggi seri, cioè persone che sapevano quello che dovevano fare. C'era Scajola, cioè, scusate, mi tocco perché Scajola sa anche di malattia, è anche una malattia brutta, cioè... Uno che chiami il tuo amico, cioè, come stai? No, c'ho la Scajola. No, cazzo, stai malissimo. C'è una malattia tremenda. Vi ricordate? Uno che ancora le foto, quando lo guardi, è lì che si chiede chi è che mi ha comprato quella casa al Colosseo? Scajola. Scajola che è uno che... Noi adesso abbiamo Martone, Michel Martone, che dice che chi si laurea dopo 27 anni è uno sfigato. Ragazzi, Scajola si è laureato nel 2000. Quella era gente seria. Scajola era uno che a 27 anni era già presidente della ASL di Imperia. Ragazzi, il più giovane presidente della ASL che si sia mai visto. Poi è diventato sindaco a 30 anni e poi è finito in galera a 31. Come suo padre, uguale. Cioè, prima c'era Ignazio Benito Maria La Russa. Cioè, sentite già il nome è eloquente, è un immaginario complesso, articolato. Ignazio Benito Maria La Russa. E che cosa poteva fare La Russa nella vita? È mica colpa sua. Cioè, era gente che andava in televisione e diceva Gammenghè Lukashenko. Prima c'erano... Era bellissimo, c'erano dei comici straordinari. Lui è andato a vedere Interscelca, che è la partita Interscelca 4, tra l'altro l'Inter ha perso 4-0. C'è andato con un aereo di Stato e ha detto, l'ho fatto per voi. Prima c'erano personaggi, ragazzi, come Maria Stella Germini. Cioè, voi vi ricordate Maria Stella? Cioè, era fantastica. Lei ha dichiarato, sono andata a laurearmi giù al sud perché passava il 90% delle persone. Cioè, questa è onestà intellettuale. Capite che è stata in grado di immaginare che ci fosse un tunnel di 750 chilometri che univa il CERN al Gran Sasso? Ma è straordinario. Cioè, questa era roba bellissima. È vero che l'Italia era un paese della Madonna. Cioè, ragazzi, prima avevamo la fantasia e il potere. C'era Sandro Bondi, ministro della cultura. Ormai è storia, ma che storia! Cioè, voi vi ricordate Sandro Bondi? Portava sfiga, perché ha detto portava sfiga, perché è andato su lui e è venuta giù roba che stava su da 1000 anni. Sandro Bondi, ministro della cultura, a Domus Aurea qua a Roma, pa, che crollata! La scora scorrorum armatororum lì a Pompei, pa, che crollata! Non c'è due senza tre, a Gela il portale, 4, pa, che crollata! Però, cioè, Sandro era un artista, scriveva poesie, ma le avete lette, erano bellissime. Cioè, Sandro era uno che stava in Parlamento, no? E si immaginava, era ispirato dalle muse che scendevano dal Parnaso, dalle scale del Parlamento. A un certo punto vede scendere la brambilla e scrive, è vero, sono poesie vere, io le ho prese da Vanity Fair, Sandro Bondi, versi diversi. Vedeva scendere la brambilla e diceva, ignara bellezza, rubata sensualità, fiore reclinato. Cioè, si ispirava, vedeva una foto di Barack Obama e scriveva impronta ancestrale, fuoco purificatore, cammino spirituale, perla nera. E uscivano così, una via l'altra, le poesie, gli andavano proprio di corsa. Una l'ha dedicata a Bibi Ballandi. Questa l'ho messa perché nel corpus bondiano bisognava metterla. Fino adesso aveva scoperto solo una figura retorica, lo simbolo. Allora adesso aveva scoperto anche la Jean Bémoy e ha dovuto fare una nuova poesia. Diceva amore è il nome di Dio. Un bimbo piange fra le braccia della madre, lì, en Jean Bémont, c'è Dio. L'armonia delle sfere celesti è en Jean Bémont, il silenzio di Dio. E basta, questa è finita così, non l'ho capita, però l'ho messa perché nel corpus bondiano ci voleva. E poi la più bella, questa era un capolavoro, l'ha dedicata alla mamma del suo capo, quello che lo ha preso dalla sua biblioteca e lo ha portato al Ministero della Cultura, a mamma Rosa. E scrive a Rosa Bossi in Berlusconi. Ragazzi, mamma Rosa da nubile si chiamava Bossi. Che forse erano anche parenti, io ancora non lo so, ma continuo a crederlo, comunque c'è qualcosa di strano. Scriveva, mani dello spirito, anima trasfusa, abbraccio d'amore, madre di Dio. Questa era roba, una volta ragazzi, una volta c'era delle cose al governo che oggi noi non ce le possiamo più neanche immaginare, cioè oggi al governo è anche un po' una tristezza, cioè abbiamo la cancelliera al governo, che non so se l'avete vista Anna Maria, è la sorella di Angela Merkel, è la sorella gemella praticamente, sono un po' più vecchia ma è incredibile, sono uguali, eh. Poi dopo abbiamo la Fornero, se la guardate bene, la Fornero ha avuto un moto così, un moto di d'animo, che quando ha detto sacrifici è scoppiato in lacrime, ma per il resto, se guardate quella rughetta che c'ha in mezzo alla fronte, guardatela bene, c'è proprio una rughetta in mezzo alla fronte che è eloquente di quanto tempo passi a guardare sopra i libri, perché lei scrive, pubblica, è seria, ha studiato, è documentata, è una che sa, è proprio lì che sta pensando in quale modo vi fotterò tutti quanti, ma lo stanno facendo per voi. Anche Mario lo sta facendo per noi tutti. Cioè, ragazzi, è una cosa magnifica. Allora, adesso che mi mancava tutto il passato, sono andato a vedere come fanno questi, questi personaggi a lavorare, no? Perché sapete che questo è un governo tecnico, ormai i politici sono finiti, quindi praticamente l'unica cosa che ho capito che è sicura è che quando c'erano i politici non erano lì per lavorare, erano lì per mantenere le cose in equilibrio. Sono arrivati i tecnici, che in teoria non devono più rendere conto a nessuno, e quindi fanno quel cazzo che vogliono. Cioè, fondamentalmente è questa la storia. Allora sono andato a vedere un secondo come funziona e come si lavora. E ragazzi, quando si lavora in Parlamento si fanno delle cose pazzesche. Cioè, quello che è successo adesso negli ultimi 3 mesi è quello che in Italia cerchiamo di fare da 30 anni. E uno dice, ma era facile? No, non era così facile. Devo fare una piccola parentesi tecnica, perché per inquadrare un secondo i tecnici che noi abbiamo in Parlamento bisogna fare una piccola parentesi tecnica. Sono andato a vedere come funziona il debito, perché noi siamo stati attaccati, perché l'Italia ha un debito pubblico molto importante. Noi siamo stati messi sotto attacco per questo debito pubblico e sono andato a cercare di capire come funziona il debito pubblico di un paese. Allora, è abbastanza semplice in realtà. Un paese è costituito da uno stato sociale e uno stato minimo. Lo stato minimo è lo stato di struttura del paese, diciamo, le sue strutture, che possono essere le caserme, come i militari, eccetera, eccetera. E uno stato sociale che è, diciamo, quello che è welfare, quindi tutto quello che serve per... non lo so, la cultura nelle scuole, piuttosto che gli ospedali, la sanità, eccetera, eccetera. Noi paghiamo le tasse e con le tasse dovrebbero mantenere lo stato minimo e lo stato sociale. Però le tasse non bastano. O perché non le paghiamo tutti, o perché comunque non bastano, perché spendiamo troppi soldi. Quindi facciamo un debito con una banca. Noi prima lo facevamo con Banca Italia, adesso lo facciamo con la BCE. Ora, un debito come funziona? È una cosa fantastica. Io non lo sapevo, ma guarda, è una cosa, ragazzi, ve lo giuro che tutto quello che sto per dirvi è vero. Facciamo un esempio facile facile, perché è l'unico esempio che sono riuscito a capire. Io devo comprare una casa da 100.000 euro. Vado in una banca e chiedo se mi danno 100.000 euro per comprare la casa. Io riporto un dossier pazzesco, con dentro le assicurazioni, giustificazioni, tutto quello che può garantire il mio debito. Vado dalla banca, mi metto tendenzialmente a 90 e gli dico, mi dai per favore 100.000 euro? La banca non te li dà. Cioè, ti dice, sì, te li do, ma non te li darà mai. Cioè, li fa passare direttamente dal suo conto al conto del notaio, del venditore della casa, che poi tu comprerai. Ora, attenti, perché questo è un passaggio straordinario. Immaginiamo che la banca aveva 200.000 euro in cassa. Io gliene chiedo 100.000. La banca mi dà 100.000 euro, secondo la più banale matematica, le dovrebbero restare 100.000 euro. Invece no. Se la banca aveva 200.000 euro in cassa, mi accorda un prestito di 100.000 euro, dopo ha 300.000 euro in cassa. Giuro che è vero. È una magia. È una magia straordinaria. Come funziona? Ci ho messo 2 giorni a capirlo. Però vi garantisco che è così. Lei vince 100.000 euro nel momento in cui te li dà. Perché tu glieli riporterai. Quindi, comprando il tuo futuro e tutto il tuo lavoro, lei può aumentare il suo capitale di 100.000 euro. Qui arriviamo a un passaggio veramente clou, che è come, per me è stato come cercare di capire come funzionavano i neutrini. Cioè una roba veramente strana, no? È proprio una roba da tecnici. Di chi sono i soldi? O meglio, quando è che io produco dei soldi? A partire dai vostri 10 euro che avete in tasca in questo momento, quando è che quei 10 euro vengono prodotti e da chi? All'oggi i 10 euro vengono prodotti dalla Banca Centrale Europea. Ma quando è che la Banca Centrale Europea li produce? Li produce quando qualcuno glieli chiede. Quindi, quando qualcuno chiede dei soldi a una banca, automaticamente produce del denaro. Chiedere dei soldi significa comprarli. Comprarli significa fare un debito. Fare un debito è uguale a produrre del denaro. Questo significa che ogni forma di denaro esistente nel mondo è uguale a un debito. È un passaggio talmente strano da capire che proprio, cioè, uno quasi dovrebbe fare un atto di fede, ma in realtà è molto semplice, è proprio semplicissimo. Io chiedo che del denaro sia prodotto, producendo quel denaro lo immetto nel mercato. Ora, questo vale per i 100.000 euro che noi chiediamo alla banca che aveva 200.000 euro, ma vale anche per la Banca Centrale Europea, che è una banca privata, come tutte le banche centrali del mondo. Quindi, quando la Banca Centrale Europea dice all'Italia, magari io compro un po' di titoli italiani e viene a comprare 8 miliardi di BTP, che cosa sta facendo? Sta inventando 8 miliardi di capitale, che prima non esistevano. E la banca centrale, se prima aveva un valore di 10 miliardi, quando ha comprato i nostri 8 miliardi di titoli di Stato, ha un valore di 18 miliardi. Questo è straordinario. Cioè, infatti Brecht diceva, inutile rapinare le banche, meglio aprirne una. Ora, se questo passaggio è stato chiaro, il pezzo bellissimo è questo. Secondo Basilea 4, una banca deve tenere in pancia all'interno, per garantire un prestito, il 10% di quel prestito. Vuol dire che, tornando ai nostri 100.000 euro, se la banca Cassa di Risparmio di Samsung mi dà 100.000 euro, basta che ne tenga in pancia 10.000 che lei sta garantendo il mio prestito. E cosa fa con gli altri 90.000 euro? Quello che vuole. È straordinario, cioè è veramente una cosa che, se uno la comprende tutta intera, è fantastica, è il modo più bello, più incredibile, più super di rubare dei soldi. È galattico, ma diventeremo tutti per forza ricchi con un metodo di questo tipo. E questi soldi dove li investe? Ora, tendenzialmente li investe in tutti quelli che sono i mercati possibili e immaginabili. Ce n'è uno che è straordinario, che è il mercato finanziario. Ora, noi non possiamo parlare di mercato finanziario perché quello... E cioè, se quella di prima era una magia, il mercato finanziario è il David Copperfield delle magie, cioè potresti fare qualsiasi cosa, il mercato finanziario, guadagni qualsiasi cosa succeda, che tutto vada bene, che tutto vada male, se tu hai posizionato un bel po' di soldi messi bene, tu guadagni in ogni caso, è fantastico. Ma lasciando stare un secondo il mercato finanziario, quando la banca investe, fa quella cosa che si chiama speculazione. Questa parola che è bellissima, no? che adesso noi siamo stati attaccati dalla speculazione, quindi è salito il nostro famoso spread. Per spiegare la speculazione, io, anche che non capisco niente di economia, no? Sono andato a prendere un film. Voi forse l'avete visto, il film Wall Street. In Wall Street, il primo, c'è Gordon Gekko, che è Michael Douglas, che specula. È un esempio di speculazione, perfetto. Praticamente che cosa fa? Deve comprare una società. Questa società si chiama Teldar Carta. Lui deve comprare la Teldar Carta e fa passare la voce che la Teldar Carta è una società che vale poco, che si sta svalutando, che sta perdendo di valore. Ora, se lo dico io che la Teldar Carta perde di valore, non gliene frega niente a nessuno. Ma se lo dice qualcuno, come Michael Douglas nel film, piuttosto che la Goldman Sachs nella realtà, c'è qualcuno che ha un portafoglio economico molto molto importante, allora la gente prende molto sul serio l'informazione. Quindi, e questa è la più bella delle magie che succedono nella finanza, tu dici una cosa e quella cosa si avvera. Diventa reale. La gente comincia a tirare via gli investimenti dalla Teldar Carta, che si svaluta, che si svaluta, che si svaluta. E quando è abbastanza giù, Gordon Gekko, Michael Douglas, Wall Street, la compra. Ora, e questa è la cosa più bella, Gordon Gekko esiste. Il personaggio che ha ispirato Gordon Gekko in Wall Street si chiama Harry Krevis. Harry Krevis è un milionario, lavora a Wall Street, ci lavora ancora, ci lavorava prima, ci lavora ancora, è quello che in Wall Street 2 nel film ha creato il motto Greed is good, che sarebbe l'avidità è buona. Esisteva anche prima ed ha fatto veramente l'operazione sulla Teldar Carta e ha fatto un monologo che è stato poi portato nel film e lui lo ha fatto veramente, lo ha tenuto, e questo monologo è stupendo. Diceva: l'avidità, non trovo una parola migliore, è valida. Avidità è giusta. L'avidità funziona. L'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo. L'avidità in tutte le sue forme, l'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha impostato lo slancio in avanti di tutta l'umanità. E l'avidità, ascoltatemi bene, non salverà solamente la Teldar Carta, ma anche l'altra disfunzionante società che ha nome America. Ragazzi, greed is good. Harry Krevis, che ancora oggi esiste e fra poco lo ritroveremo, ha fatto questo monologo che spiega perfettamente come si fa a mandare avanti le cose. Ora, finita la parentesi sull'economia, scusatemi, tenetela solo a memoria un secondo perché ci serviva per chiarificare un secondo i passaggi di questo governo. Mario Monti, chi è Mario Monti? Mario Monti, che uno, Mario Monti arriva, io sono anche un po' dispiaciuto perché non so più cosa dire, no? Mario Monti, dice. Mario Monti, Mario Monti, Monti Mario, cosa vuoi dire di Mario Monti? Non, cioè, non puoi dire niente di Mario Monti, niente, è Varese, classe 54, persona per bene, va in chiesa, prende messa tutte le domeniche, quando è arrivato al governo, ha mandato la moglie in stazione, è andato a prenderlo con le camicie, sembrava che Mario non cedesse neanche le camicie a portarsi dietro. All'inizio non voleva niente, cioè lui ha visto le Airbus con cui doveva andare in giro presidente del consiglio e ha detto, ma è troppo grande, datemene uno più piccolo. Cioè Mario è uno che va al museo a vedere Botero e paga il biglietto. Cosa vuoi dire di Mario Monti? Non puoi dire niente, è la persona perfetta. Mario non li fa i bunga bunga, Mario non è amico di Gheddafi, cioè Mario non va a caccia di tigri con Putin, Mario non ce li ha degli aneddoti avvincenti, però Mario è arrivato al governo a una velocità tale che uno dice, sì, ma come ha fatto? Perché tutti i politici che c'erano prima ci provano da 50 anni e questo qua è arrivato, tac, in un colpo è andato su. Ci sono 4 punti fondamentali, in realtà sono 5, i punti fondamentali per mettere a fuoco il personaggio. Dunque, Mario Monti fa parte di un sacco di cose, gruppi, ONG, eccetera. Noi sappiamo che adesso è rettore presidente, è stato rettore, poi dopo è stato presidente della Bocconi. Questo è significativo perché la Bocconi è un centro di sapere molto importante per l'economia in Italia e lo vuole diventare anche nel mondo, non a caso è Mario Monti, ma Mario Monti ha fatto parte di alcune cose che sono straordinarie. Una di queste è il Bilderberg Group. È un club. Se non l'avete mai sentito parlare, andate a vedere. È un club bellissimo, tipo un club privato. È stato fondato nel 54 nel castello olandese dei Bilderberg e è un posto dove praticamente tu vieni invitato se sei una persona molto importante e di solito dopo che sei passato di lì succedono delle cose. Faccio un esempio: quando vieni invitato al Bilderberg, di solito ci sono 180 inviti che partono ogni anno, più o meno, sono segreti, non puoi divulgare la località nella quale si terrà l'incontro e non puoi divulgare l'invito, altrimenti vieni escluso. Chi è passato da questo Bilderberg dal 54 ad oggi? Persone di vario genere. Uno che sicuramente conoscete, che è un Bilderberg di razza, era David Rockefeller. Però sono passati, per esempio, Bill Clinton. Bill Clinton nel 91, Bill Clinton era governatore dell'Arkansas. Cioè che uno dice, l'Arkansas che posto è? Non ci vai neanche in vacanza in Arkansas. Però nel 91 era governatore dell'Arkansas. È passato quello stesso anno al Bilderberg, ha vinto le primarie del Partito Democratico e poi nel 92, incredibilmente, è diventato presidente degli Stati Uniti. Un caso. Tony Blair. Tony Blair partecipa al meeting nel 93, diventa leader del Partito Laburista nel 94 e viene eletto primo ministro nel 97. Un caso. George Robertson, che conosciamo meno, partecipa al meeting nel 98, poi diventa segretario generale della NATO nell'agosto del 99. Un caso. Romano Prodi, uno che conosciamo invece benissimo, partecipa al meeting nel 99 e riceve l'incarico di presidente dell'Unione Europea nello stesso anno. Straordinario. Un caso. Quindi pare che ci sia, l'aveva detto una volta un tizio, era il barone Dennis Winston Healey, che era ministro britannico della difesa. Dice, quel che accade, lui lo diceva, noi siamo contro il complotto, però dice, quel che accade nel mondo non avviene per caso. Si tratta di eventi fatti succedere sia che abbiano a che fare con questioni nazionali o commerciali. E la maggioranza di questi eventi sono inscenati da quelli che maneggiano la finanza. Ma questo è un pensiero suo. Noi siamo al Bilderberg Group, il primo di cui fa parte Monti, un mega club. C'è un altro specie di club, che in realtà non è proprio un club, che è un ONG di cui fa parte Monti. È la Trilateral Commission. Questa l'ha inventata David Rockefeller, che faceva parte del Bilderberg. La Trilateral Commission è una commissione trilaterale che quindi, come dice la parola stessa, unisce tre lati e sono grandi aree geografiche. Queste aree geografiche sono composte dal Giappone, dagli Stati Uniti e dall'Europa. Uno dice, che cosa fate nella vostra ONG? Niente, nella nostra ONG ci organizziamo per creare geostrategia, quindi sistemi di interdipendenza che leghino socialmente ed economicamente diverse aree geografiche. Già il lavoro è bello perché tu dici, che lavoro fai? Io faccio il geostratega, tu? Niente, io lavoro al bar qua sotto, però è uguale, quello è più bravo fa il geostratega. Hanno commissionato una sorta di, come si può dire, dossier a dei geni dell'economia, e è saltato fuori questo dossier del 73 che si chiama The Crisis of Democracy. Che cosa dice? Il dossier dice che la democrazia, nel momento in cui rimane rappresentativa ma le aree di interesse sono troppo grandi, non funziona più. Cioè, se ci sono troppi interessi rappresentati all'interno del sistema democratico, la democrazia va in impasse, si blocca. Questo è molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto interessante, perché arriva a teorizzare che non dovrebbero le grandi aree geografiche essere guidate da politici che hanno una carica di rappresentanza e quindi sono eletti, bensì dovrebbero essere guidate da tecnici. Molto divertente questo della Trilateral Commission, però non gli bastano. Allora lui ne fonda uno di gruppi, si chiama Brueghel questo gruppo. Brueghel era un pittore fiammingo, forma questo piccolo gruppo di amici, e sempre dentro a Brueghel uno dice: beh, ma a me Tiziano cosa me ne frega se lui va a Brueghel? E il punto è che a Brueghel non ci siamo io, Federico, Giovanni e Mario. A Brueghel ci vanno 16 multinazionali e un po' di capi di Stato. Per esempio, al Brueghel viene commissionato un libro bianco, e viene commissionato proprio a Monti, sul mercato unico. Il Brueghel quindi si occupa ancora una volta di mercato unico, di interazione fra grandi aree di mercato. C'è un'altra cosa bellissima che fa Super Mario, e è far parte della Goldman Sachs. La Goldman Sachs è una banca che fa parte della Federal Reserve. Cito la Goldman Sachs perché dovete metterla a fuoco in questo modo, sempre per i grandi agenti del mercato. La Goldman Sachs ha un potere di fuoco di 12 miliardi di dollari. Scusate, 12 mila miliardi di dollari, sono veramente una cifra smodata. Considerate che noi facciamo una finanziaria con 30 miliardi, quindi con 12 mila miliardi facciamo la finanziaria dell'Europa e mandiamo in vacanza tutti. Aspettate, chi è ancora che fa parte della Goldman Sachs, che è stato uomo della Goldman Sachs? Monti è stato International Advisor, Mario Draghi è stato uomo della Goldman Sachs, oggi è presidente della BCE, Prodi è stato uomo della Goldman Sachs. Incredibilmente Papademos, che è quello che è stato chiamato adesso a salvare la Grecia, era uomo Goldman Sachs. Papademos ha lavorato anche in BCE, Papademos ha fatto parte anche del Bilderberg Group e Papademos ha fatto parte anche della Trilateral Commission. I ragazzi si ritrovano, sono tutti amici. La BCE è l'ultimo di cui ha fatto parte anche Monti. Monti è stato commissario per la BCE, Papademos è stato vice direttore, Draghi è adesso presidente. È straordinario, perché si rincontrano gli amici, è un po' come se ci rivediamo tutti ai soliti giri del bar. Cosa sono questi posti di base? Loro li chiamano, gli americani li chiamano think tank, che è un nome veramente bellissimo, perché cioè, ti dice tutto. Sono come bacinelle, no? Bacinelle di pensiero, e sono vasi comunicanti. Questo è bello, no? Perché sono vasi comunicanti, si incontrano sempre le stesse persone, fanno sempre le stesse chiacchiere e si mettono un po' d'accordo su cosa succede. Ora, scusate se ho fatto questa piccola parentesi di appartenenza ai gruppi, però era molto divertente. Adesso valutiamo un secondo cosa è successo brevissimamente a Grecia e Italia intorno al mese di novembre-dicembre. Berlusconi e Papandreou, due presidenti del Consiglio eletti democraticamente, vanno al G20 a Cannes. Berlusconi, galattico, arriva e dice: no, tranquilli ragazzi, in Italia non c'è posto neanche per andare sull'aereo, non c'è posto dentro i ristoranti, guarda, in Italia sono tutti in vacanza, non abbiamo neanche un problema. Lo guardano e gli dicono: caro Silvio, te ne devi andare, non so se l'hai capito. Papandreou arriva, cerca di tenere un profilo un po' più basso, però anche a lui gli dicono: caro Papandreou, te ne devi andare a casa anche tu. Cosa succede? Berlusconi torna, fanno tutte le riunioni del caso, intanto sale, comincia a salire questo spread sale, e Berlusconi torna là e dice: no ragazzi, ma noi sistemiamo tutto, non c'è problema. Papandreou torna e dice: noi sistemiamo tutto, non c'è problema, ma sto spread continua a salire, sale, ma come cazzo sale sto spread? Che io mi sono detto, ma cioè il G20 sono i più grandi 20 paesi del mondo, si ritrovano là, dico bene, ma non riescono a fermare sto spread che sale, sto spread che vuol dire in inglese differenza, beh, non capisco perché dobbiamo chiamare tutte le cose in inglese, comunque sto spread sale e quelli non riescono a fermarlo, ma com'è fatto sto spread? È bellissimo, lo spread è uguale alla terra carta. Cioè, grandi agenti del mercato cominciano a dire che l'Italia e la Grecia probabilmente non sono solvibili, quindi l'Italia e la Grecia non riusciranno a pagare i loro debiti. Magicamente, la magia della finanza comincia a rendere questa cosa vera, perché investitori cominciano a tirare via denaro. Quindi automaticamente si avvera la profezia che l'Italia e la Grecia possono non solvere i loro debiti. promettenti, perché non solo tirano via denaro, ma cominciano a giocare contro, perché la borsa è galattica. Cioè tu puoi cominciare a giocare contro un paese, guadagni più il paese va sotto. E sto spread sale di brutto. Torniamo al G20. Al G20 gli dicono a Berlusconi, bene, è finita la festa, devi tornare a casa. Berlusconi aspetta che sia domenica, perché ovviamente l'abbandono si fa intorno al sabato e alla domenica, perché è lunedì che deve ripartire il paese, perché se lo fa in settimana, bang, le borse ti saltano addosso. Berlusconi torna in Italia e dice, ok, mi dimetto, cosa ha detto? Mi dimetto. Berlusconi ha detto mi dimetto, avrà anche detto che l'ha fatto per i paesi, ma Berlusconi ha detto mi dimetto, cioè gloria allo spread, ragazzi, è una cosa veramente impressionante, lo spread lo ha dimesso. Papandreou che cosa fa? Torna al G20 e dice, no, io pensavo di dimettermi, però ho indetto un referendum. Un referendum? Cioè, c'è stato il gelo generale al G20, gli hanno detto, hai indetto un referendum per chiedere cosa? E lui ha detto, per chiedere ai greci se vogliono pagare tutti questi debiti e restare in Europa oppure andarsene a casa. Lo hanno guardato come un mentecatto cerebro leso e gli hanno detto, tu questo referendum lo ritiri, non si può fare. Perché non si può fare un referendum in un paese dove c'è uno democraticamente eletto? Perché avevano fatto un referendum in Islanda. L'Islanda ha fatto default 2 anni e mezzo fa, caso clinico perfetto. L'Islanda fa default e non riesce più a pagare i suoi debiti. Allora il presidente del Consiglio islandese a tutti gli stati e le banche che gli saltano addosso gli dicono, adesso voi per i prossimi 25 anni dovete pagare 15.000 euro a famiglia per tutti gli anni che vengono da qua ai 25 anni e o pagate o pagate. Questi sono 300.000, c'hanno i geyser, si sono telefonati, si sono scritti su Facebook e su Twitter, hanno detto tu paghi, io no, va bene, allora non paghiamo. Hanno telefonato al primo ministro e gli hanno detto tu vai a casa. Lo hanno spedito, hanno fatto una nuova costituzione su internet e hanno rifatto un nuovo governo. Aspetta. Gli volevano mandare l'esercito, perché non hanno più pagato un debito. Questi hanno inchiappettato tutti quanti. Quando l'ha detto Papandreou, hanno detto, ma tu sei pazzo, fottuto! Lo hanno rimandato indietro, ha ritirato il referendum e è partita la famosa cura della Grecia. Ora, questo è straordinario. Innanzitutto, questo spiega che non va chiesto al popolo che cosa pensa che sia giusto fare, perché probabilmente non lo sa. Ma spiega anche un'altra cosa, spiega che c'è una visione da sopra, che è legata appunto a fattori di carattere economico, che possono influenzare talmente tanto l'economia di un paese. Ricordiamoci che Goldman Sachs 12.000 miliardi di Italia ne fa 15, possono influenzare talmente tanto un paese attraverso pressioni assolutamente legali, per esempio far salire lo spread a palla, da far cadere un governo. Ora, c'è un piccolo contributo audio che voglio mandare, che è un'intervista di Mario Monti, che è molto, molto eloquente. Naturalmente io ho una distorsione che riguarda l'Europa, ed è una distorsione positiva che riguarda l'Europa. Anche l'Europa, non dobbiamo sorprenderci che l'Europa abbia bisogno di crisi e di gravi crisi per fare passi avanti. I passi avanti dell'Europa sono per definizione cessioni di parti delle sovranità nazionali a un livello comunitario. È chiaro che il potere politico, ma anche il senso di appartenenza dei cittadini a una collettività nazionale, possono essere pronti a queste cessioni solo quando il costo politico e psicologico del non farle diventa superiore al costo del farle, perché c'è una crisi in atto, visibile, conclamata. Abbiamo bisogno delle crisi. Che belle parole che ha detto Mario. Che belle parole, cioè se le abbiamo capite, sono molto belle. Innanzitutto ha detto che è una cessione di sovranità nazionale. Beh, è bello perché Bernardo d'Olanda, 1954, fondatore del famoso gruppo Bilderberg, diceva «È difficile rieducare gente allevata al nazionalismo all'idea di rinunciare a parte della loro egemonia a favore di un potere sovranazionale». 1954, fondatore del gruppo Bilderberg. Strano perché le parole si assomigliano molto. E poi ha detto che c'è bisogno di una crisi. Cioè, di una crisi. Questo è bello perché le crisi aiutano, le crisi fanno bene. Perché? Perché aumentano il costo psicologico del non fare. C'è un economista, premio Nobel dell'economia 1982, si chiama Milton Friedman, è il fondatore del liberismo. È una mente quello che ha fondato i Chicago Boys, è quello che ha creato la logica del libero mercato, che vorrebbe che ci sia questa grande mano longa che si muove nel mercato e che autoregola tutto, cioè tanta domanda c'è, tanta offerta c'è. Si è verificato che questa cosa è abbastanza discutibile, però questo Milton Friedman aveva detto questa frase: le crisi, i disastri e le guerre rendono il politicamente impossibile in politicamente inevitabile. Questa frase è troppo bella. Questa frase è talmente bella che io quando l'ho letta non sono riuscito a tenermi. Allora ho fatto una specie di roba, no? Cioè, questa cosa del rendere politicamente impossibile, politicamente inevitabile, quando l'ho letta mi ha esaltato. Allora ho pensato di fare una canzone, che poi non è una canzone così, no, soltanto per fare, tanto per dare una sveglia. Se Mario Monti non fosse al governo in Italia, l'Italia sarebbe fallita. Se Papademos non fosse al governo in Grecia, la Grecia dall'euro se ne sarebbe già andata. Se la Libia non avesse sparato sulla folla, sarebbe stato difficile intervenire. Se Gheddafi non fosse stato un regime, sarebbe stato difficile farlo cadere. Se l'Iraq era mio alleato fino a ieri non avesse la tua amica, se Saddam non avesse avuto milioni di amici, mica se mia nonna avesse avuto le ruote, quantomeno andavano gonfiate. Pensi che sto esagerando, dimmi come avremmo fatto a costruire all'Aquila fuori piano regolatore senza il terremoto. Dimmi come avremmo fatto a toglierci dalle palle tutti quei bastardi negroni senza l'uragano Katrina. Ma la cosa più bella è che tutto questo c'è un nome ben preciso, che è rendere politicamente impossibile, politicamente inevitabile. Era così, no, solo per dare una sveglia, perché questa cosa è politicamente impossibile, politicamente inevitabile. È sorprendente. Cerchiamo adesso di chiudere il cerchio e ho finito. Se ci pensate un secondo, noi abbiamo provato a far passare una Costituzione europea, è stata bocciata. Al posto della Costituzione abbiamo fatto un trattato. Nel trattato hanno rimesso tutto quello che hanno messo nella Costituzione. Ma perché è stata bocciata questa Costituzione? Tecnicamente è stata bocciata perché non piaceva il fatto che quelli che poi governano l'Europa non sono eletti, sono nominati, sono tecnici. Voi potete eleggere un senatore europeo? Potete eleggere un commissario europeo? Potete eleggere un presidente europeo? No, non potete. Non potete, loro sono lì. E noi non li abbiamo mandati adesso. E questa, cioè, non è storia, è di oggi. È andato 20 giorni fa. Monti è andato al grattacielo Bloomberg sulla 59esima strada fra Lexington e la Terza Avenue per incontrare il gotto della finanza, quello famoso, no? che ci ha attaccato, che ha fatto salire lo spread. È straordinario. Chi ha trovato là dentro a questa riunione? Ha trovato il CEO di Goldman Sachs. Si conoscevano. Si conoscevano perché lui aveva lavorato come International Advisor nel 2008 per Goldman Sachs, quindi si conoscevano. Ha trovato Brzezinski Brzezinski, che era il fondatore insieme a Rockefeller della Trilateral Commission. E ha trovato anche Eric Ravis, che era quello che ha fatto Greed is Good, quel famoso monologo sulla Teller Carta, eccetera. È uscito da là e con una nonchalance straordinaria, veramente il savoir-faire, ha detto: forse li ho convinti. Ora, il complotto non esiste, però immaginiamo un secondo che io e voi ci troviamo regolarmente negli stessi posti. Sono sempre dei consessi molto importanti nei quali parliamo sempre più o meno con la stessa linea di pensiero e decidiamo a grandi linee chi è che farà il ministro dell'economia di un posto piuttosto che il presidente del consiglio di un altro. Ora, forse siamo abbastanza d'accordo sulle linee di fondo da seguire. A questo punto io non credo nel complotto, però è uscito su Milano Finanza. Milano Finanza non è un giornale complottista. Un articolo che diceva che il lancio di svendite dei titoli BTP, quindi dei titoli di Stato italiani, è stato fatto dalla Goldman Sachs. Svendite dei BTP è come svalutazione del titolo di Stato italiano, è come la svalutazione della Telder Carta, è come mettere in crisi un paese a livello finanziario. Ed è stato fatto, secondo Milano Finanza, ragazzi, è stato fatto il 10 novembre. La cosa galattica è che Mario Monti aveva firmato come senatore a vita, quindi passaggio fondamentale per poter diventare successivamente presidente del Consiglio, proprio il 9 novembre, in tutta urgenza, con uno spread a 1000. Devono essere coincidenze. Quindi, per chiudere, dicendo viva l'Europa, chiudiamo con alcune parole di due commentatori significativi del gruppo Bilderberg. William Vincent Shannon, caporedattore del New York Times e ambasciatore per gli Stati Uniti in Irlanda, scriveva: «I membri di Bilderberg stanno costruendo l'era del post-nazionalismo, quando non avremo più paesi, ma piuttosto regioni della terra circondate da valori universali. Sarebbe a dire un'economia globale, un governo mondiale e una religione universale». E per essere sicuri di raggiungere questi obiettivi, i Bilderberg si concentrano su un approccio maggiormente tecnico e su una minore consapevolezza da parte del pubblico in generale. David Rockefeller, Bilderberg di razza, scriveva nelle sue memorie nel 2002: «Alcuni credono che facciamo parte di una cabala segreta che manovra contro gli interessi degli Stati Uniti, definendo me e la mia famiglia come internazionalisti, e di cospirare con altri nel mondo per costruire una più integrata struttura politico-economica. Se questa è l'accusa, io mi dichiaro colpevole e sono orgoglioso di esserlo».